Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, è stata sicuramente, come avete sentito in sottofondo, una giornata piuttosto agitata a Roma per il sindaco Marino, che alla fine, come avete già saputo, ma se no andate prima qui da Effetto Notte, si è dimesso, si è praticamente arreso a queste pressioni crescenti, diciamo, da diverse settimane se non da mesi. Ma devo dire che il sindaco Marino ha una personalità molto particolare, al di là dei suoi difetti, delle disavventure, delle gaffe, delle cose inopportune eccetera, che gli permette di resistere, di riuscire ad avere sempre un certo aplomb, nel senso di non sentirsi mai completamente perso, perché una cosa che ha voluto dire in una nota, si dovrebbe vedere un video a momenti ma ancora non c'è, con delle sue dichiarazioni, ha detto: va bene, mi dimetto per il bene della città, per la città che io amo, eccetera eccetera, e poi ha aggiunto: comunque sono consapevole che le dimissioni possono essere ritirate entro 20 giorni, quindi insomma non si è arreso del tutto il sindaco Marino. Che ne pensate di questa vicenda? Che ne pensate delle sue dimissioni? Lo sapete, ci sono sempre questi due canali privilegiati per voi per intervenire qui a Effetto Notte, che sono la pagina Facebook del programma, quindi la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure le vostre opinioni le potete anche inviare via SMS al 349-238-6666, questo è il numero per i messaggi, 349-238-6666, se no la pagina Facebook di Effetto Notte. Ci concentreremo molto naturalmente su questo, perché è da tempo che è un crescendo di pressioni e di, diciamo, scivolate nei confronti e da parte di Marino, e quindi arrivati a questo epilogo mi piacerebbe sapere quali sono le vostre opinioni, e ne parleremo, dicevo, con Marcello De Vito, che è consigliere comunale Movimento 5 Stelle, capogruppo a Roma, e poi con anche un esponente del PD, l'onorevole Andrea Romano, e con un commentatore politico, quindi ci sarà grande spazio per questo. Poi parleremo anche del Nobel per la letteratura, delle varie questioni del calcio, per esempio della sospensione di Platini e Blatter, e poi dei guai del fisco per Messi. Ma insomma, iniziamo prima di tutto questa puntata piuttosto intensa. Roma sotto assedio, il sindaco Marino si dimette. L'ho fatto avendo come unica stella polare l'interesse della capitale d'Italia, dice, ma consapevole di poterle ritirare. Israele: non si fermano le violenze, ancora coltellamenti, e il sindaco di Gerusalemme raccomanda di girare armati. Siria: Damasco lancia l'offensiva di terra e la NATO alza la voce con Mosca. Riforme: il governo ha accettato in Senato un ordine del giorno per la riduzione delle regioni. Primo caso al mondo, bimbo salvato da allergia grave lavando il suo sangue al Bambin Gesù di Roma. Il Nobel per la letteratura è stato assegnato alla bielorussa Alexievich, scrittrice scomoda che non ama Putin e accusa la Russia dell'occupazione ucraina. E per il calcio, in campo Albania-Serbia per le qualificazioni agli europei, si temono incidenti, e per le accuse di corruzione la FIFA sospende Blatter e Platini. Partiamo quindi da queste dimissioni ormai attese già da ore di Marino, alla fine di una giornata davvero, vi dicevo, convulsa, assediato da più parti, anche dopo la polemica sugli scontrini, dal suo stesso partito, il PD, e quindi si è arreso. Le opposizioni hanno fatto festa sotto il Campidoglio, come probabilmente ci può confermare da Roma Vincenzo Miglietta. Ciao Vincenzo. Sì, buonasera ai nostri ascoltatori. Festa delle opposizioni sotto al Campidoglio. Ora la situazione si è molto tranquillizzata, ma Roberta, all'annuncio, all'arrivo della notizia delle dimissioni di Marino, vi è stato un vero e proprio boato da parte delle varie opposizioni, che in realtà sono state un po' divise dalle forze dell'ordine, perché ci sono stati anche attimi di tensione durante la giornata. Comunque, una notizia che era attesa in mattinata, poi è andata nel primo pomeriggio fino all'epilogo di poco prima delle 20, quando il sindaco Marino si è dimesso con il comunicato a cui tu facevi riferimento, e che, se vuoi, ha degli elementi anche particolari. In che senso? In che senso mi riferisco a questi famosi 20 giorni che Marino... Ecco, sì, che dice solo di avere 20 giorni per ritirarle, no? Dice. Assolutamente, dice mi dimetto, presento le mie dimissioni sapendo che queste possono per legge essere ritirate entro 20 giorni, non è un'astuzia la mia, ha detto Marino, è la ricerca di una verifica seria se è ancora possibile ricostruire queste condizioni politiche, quindi diciamolo onestamente, Marino si è dimesso ma evidentemente spera in questi giorni, nelle prossime settimane, di poter ricostituire comunque una maggioranza attorno alla sua figura. Chissà mai, insomma, non poniamo limiti alla provvidenza, visto che di colpi di scena non ne sono mancati finora. Grazie Vincenzo Miglietta da Roma. Ciao Vincenzo. Grazie, grazie. Ciao Vincenzo. E vi dicevo, tra poco ne parleremo diffusamente con il consigliere capogruppo del Movimento 5 Stelle De Vito di Roma e con il deputato del PD Andrea Romano. Adesso però per un po' cambiamo argomento mentre voi continuate con le vostre considerazioni che già stanno arrivando al 349-238-6666 sulla pagina Facebook di Effetto Notte a proposito di queste dimissioni. Parliamo di notizie dall'estero, in Siria con le tensioni tra NATO e Russia. A Bruxelles oggi si sono riuniti i ministri della difesa della NATO per affrontare appunto questo dossier sulla Siria dopo l'intervento di Mosca nel paese e le violazioni dello spazio aereo della Turchia da parte degli aerei russi. NATO is able and ready to defend all allies, including Turkey, against any threats. La NATO è pronta a difendere tutti gli alleati, compresa la Turchia, dove dispiegherà le sue forze se necessario. Ad avvertire il Cremlino è il segretario generale della NATO, Stoltenberg, nel giorno in cui i ministri della difesa dell'Alleanza Atlantica a Bruxelles hanno dato il via libera al rafforzamento delle forze di intervento rapido della NATO, che raddoppiano, avendo ora a disposizione 40.000 soldati da schierare a est ma anche a sud dei confini dell'Alleanza Atlantica. Sempre a Bruxelles, l'annuncio della Gran Bretagna che intende inviare un centinaio di soldati nei paesi baltici nell'ambito delle misure per rassicurare gli alleati. Nel caso ci sarà una risposta per ristabilire la reciproca parità, la reazione immediata da parte di Mosca. E mentre Washington ribadisce che non coopererà con la Russia finché continuerà a sostenere Assad, il Cremlino fa invece sapere che in Siria alcune forze, tra cui l'esercito libero siriano, sono pronte a cooperare nella lotta all'ISIS. Intanto arriva un nuovo resoconto dell'offensiva sul campo. Secondo il Ministero della Difesa russo, 22 raid notturni hanno colpito 27 obiettivi dell'ISIS in Siria, tra cui 11 aree con campi di addestramento. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È molto legato alla situazione in Siria, come sapete, anche il tema dei migranti, quanti ormai a migliaia e migliaia fuggono dalla Siria. Oggi al vertice dei ministri dell'interno europei la Francia lancia una proposta destinata a far discutere. Una guardia di frontiera europea sotto diretta responsabilità di Frontex. La Francia fa un deciso passo in avanti sul fronte delle politiche migratorie presentando la proposta a livello di ministri dell'interno. L'idea transalpina è quella di fare in modo che ciascun paese membro metta a disposizione di Frontex una quota annuale di agenti di frontiera senza intaccare la sovranità nazionale sui confini esterni. In un secondo tempo questo embrione potrebbe trasformarsi in una forza autonoma. Il tutto mentre a tenere banco sono i primi ricollocamenti di migranti sulla base dello schema approvato a fine settembre. Il volo inaugurale sarà domani col trasferimento da Roma in Svezia di una ventina di profughi eritrei e la Spagna si è detta pronta a ricollocare una cinquantina di profughi provenienti dall'Italia come progetto pilota. Una giornata di valore simbolico e sostanziale ha definito quella di domani il commissario europeo Avramopoulos, che ha anche annunciato sul fronte rimpatri che saranno una decina i voli congiunti in programma questo mese. Proprio sui rimpatri nei paesi di origine è arrivato l'affondo del ministro dell'interno Alfano. Da adesso i rimpatri devono essere effettuati dall'Europa, perché noi dobbiamo dire chiaro e tondo ai paesi africani che noi come Europa diamo i soldi della cooperazione internazionale solo se loro ci aiutano. E sui rimpatri, dura presa di posizione della Gran Bretagna, dobbiamo rimandare i migranti economici nei loro paesi d'origine, dobbiamo avere tolleranza zero per chi abusa del nostro sistema di asilo, l'Europa faccia di più. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo ancora all'estero, in Israele, dove cresce sempre di più la tensione. Due israeliani sono stati pugnalati nel centro di Afula, cittadina nel nord del paese. Secondo i media l'aggressore, un palestinese, è stato colpito dal fuoco degli agenti e sarebbe morto, e poco prima un palestinese era rimasto ucciso durante scontri fra dimostranti e reparti della polizia nel campo profughi a nord di Gerusalemme. E sempre oggi a Tel Aviv due israeliani sono stati feriti da un palestinese ucciso poi dalle forze di sicurezza, e il sindaco di Gerusalemme ha invitato addirittura a chi può andare in giro armato. Quindi una situazione di tensione sempre più forte, come ritornare un po' indietro in Israele. E poi cambiamo pagina completamente, andiamo sulle questioni italiane, sull'economia del nostro paese. L'Italia sta uscendo dalla crisi, come ha detto il ministro Padoan, ma le imprese soffrono ancora. L'economia italiana sta uscendo dalla crisi, i numeri sono incoraggianti sia in termini di crescita che in termini di occupazione, ma questa uscita dalla crisi in realtà avviene ancora con qualche fatica. La ripresa non è ancora agganciata, secondo il ministro dell'economia Piercarlo Padoan, al convegno digitale per la crescita a Capri. Bisogna recuperare 10 punti di PIL e 20 anni di ritardi negli investimenti. Ai segni positivi di occupazione, consumi e redditi si contrappone una realtà delle imprese ancora incerta, come quella delle attività commerciali che per Confesercenti continuano a chiudere al ritmo di 30 al giorno, lasciando 627.000 locali sfitti, il 25% del totale. Il segretario generale di Confesercenti, Mauro Bussoni. Fare una politica sul recupero, basata anche su affitti calmierati, è una politica che noi riteniamo assolutamente indispensabile per garantire una rigenerazione di nuove attività. E instabile è anche la ripresa del turismo, che ha registrato un incremento di presenze del 3,2% dall'anno scorso, ma vede ancora in calo dell'1,3% gli occupati. Valeria Grandi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E secondo i dati dell'Istat restano forti disparità tra uomini e donne nel lavoro e nel trattamento pensionistico. Nel 2014 più della metà delle donne aveva un reddito da pensione inferiore a 1.000 euro mensili, contro un terzo degli uomini. Le donne sono la maggioranza dei pensionati, ma percepiscono al mese una media di 1.095 euro contro i 1.549 degli uomini. Un dato non nuovo, ma ora certificato dall'Istat in un'audizione alla Camera. E non solo. Se la vita è ardua dopo la pensione, la disparità di genere resta anche nella carriera lavorativa, tanto che quasi una donna su tre lascia dopo la nascita di un figlio. A guardare oltre la maternità emerge che il 22% delle donne interrompe il lavoro per motivi familiari, contro appena il 3% degli uomini. Un dato che va di pari passo con l'alta asimmetria dei ruoli nella coppia, dove il 72% delle ore di lavoro di cura dei figli sono ancora svolte dalla donna. Livia Liberatore, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Per quanto riguarda la politica, le riforme, il governo ha accettato in Senato un ordine del giorno di Raffaele Ranucci del PD che impegna il governo a prendere in considerazione, prima dell'entrata in vigore del disegno di legge Boschi, l'opportunità di proporre attraverso una speciale procedura di revisione costituzionale la riduzione delle regioni. Quindi ci potrebbe essere una riduzione delle regioni, chissà di quali si potrebbe fare a meno. E adesso invece occupiamoci di una cosa particolare tra salute e scienza, di un bimbo salvato da un'allergia grave lavando il suo sangue. La prima mondiale, questa, una prima mondiale, è successo al Bambin Gesù di Roma, un bambino di 7 anni affetto da una gravissima forma allergica alimentare che gli provocava delle forti crisi di asma, molto, molto grave, e hanno utilizzato per la prima volta al mondo questa tecnica di lavaggio del sangue. Non è risolutivo, però per il momento riesce a tenerlo bene sotto controllo. E poi c'è il Nobel per la letteratura. È stato assegnato alla bielorussa Alexievich, scrittrice scomoda che non ama Putin, che accusa la Russia dell'occupazione ucraina, che viene anche boicottata nel suo paese in Bielorussia. E poi cercheremo di sapere qualcosa di più su di lei attraverso chi l'ha conosciuta. Per il calcio, in campo Albania-Serbia per la qualificazione agli europei del 2016, è vero Dario Ricci? Sì, confermo, già questa è la notizia, il fatto che le due nazionali siano in campo, visto il precedente dell'andata, forse la ricorderete, no, Roberta, la partita del drone che appunto che svolazzò sul campo di Belgrado causando tumulti e incidenti. Ebbene, si è rischiata la sospensione, anzi il rinvio, anche per la gara che si sta disputando ad Elbasan, poco a sud di Tirana, ieri lancio di sassi contro il pullman serbo. Fortunatamente si gioca, risultato di 0-0, e c'è anche una bella fetta d'Italia perché l'arbitro Rizzoli e il CT dell'Albania è il nostro Gianni De Biasi. Finora 0-0, non si registrano incidenti, e già questa, oltre ad essere una notizia, è anche buona. È anche buona. Poi invece parleremo di notizie non tanto buone per qualcun altro, Dario Ricci, ci aggiorniamo poi dopo, su Platini e Blatter che sono stati sospesi, e anche sui guai del fisco col fisco di Messi. A dopo allora, Dario. A dopo. Ciao Dario Ricci. Adesso ci fermiamo brevemente prima di immergerci completamente nella vicenda delle dimissioni di Marino con gli ospiti che seguiranno tra poco, e leggo brevemente alcuni vostri messaggi tra la pagina Facebook di Effetto Notte. note, il 349-238-6666. Roberto dice: il problema principale è che l'ex sindaco Marino, al contrario di molti suoi colleghi sindaci, non ha voglia di lavorare, dice così. Poi invece Roberto da Roma: io non ho votato Marino e non mi è particolarmente simpatico, ma come si fa a non pensare che dall'inizio la sua presenza ha dato fastidio al PD e anche all'opposizione, perché non potevano continuare a gestire i loro mali affari? Marino è certamente un autolesionista, ma le accuse nei suoi confronti riguardano gaffe, non veri latrocini e associazioni a delinquere. Questi sono alcuni dei vostri messaggi. Continuerò tra pochissimo, prima la viabilità. Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presento. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Ancora tanti vostri messaggi dal 349-238-6666 sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Da quando è stato eletto Marino ha avuto tutti contro. Non è facile fare il sindaco quando perfino la sua coalizione ti fa opposizione. Bisogna dire che anche oggi, prima delle dimissioni di Marino, diciamo che la piazza è diventata un po' uno stadio, nel senso che c'erano davanti al Campidoglio quelli che lo sostenevano, dicevano Marino resisti, e quelli che invece urlavano dimissioni, dimissioni. Quindi continuano ad esserci naturalmente sostenitori e detrattori. Intanto appunto la notizia è che si è dimesso, però la cosa particolare è che ha aggiunto in questa nota con cui ha comunicato le sue dimissioni che è consapevole che in 20 giorni può ritirarli. Voi continuate con le vostre considerazioni. Adesso, prima di salutare gli ospiti, vi ricordo, come sempre, dopo le pause, le notizie più importanti della giornata. Naturalmente in testa tutte queste delle dimissioni di Marino, che si dimette dopo questo pressing così forte. Dice: ho avviato le riforme nella città, ma ora ho 20 giorni per ripensare le dimissioni. Poi, per quanto riguarda la Siria, Damasco lancia l'offensiva di terra e la NATO alza la voce con Mosca dopo i bombardamenti che secondo la NATO non sono mirati all'ISIS. Il Nobel per la letteratura alla Bielorussia Alexievich: non rispetto il mondo di Putin e Stalin, dice, sono boicottata dal potere. E poi indagini su mafia e finanza, indagato anche Palenzona, numero 2 di Unicredit, escalation di violenza in Israele, come avete sentito, e poi caos FIFA, Blatter e Platini sospesi per 90 giorni. Punto, come vi dicevo, assediato da ore, soprattutto nelle ultime ore, il sindaco di Roma Ignazio Marino ha deciso di dimettersi. È stato praticamente costretto a dimettersi, perché anche questo asse forte tra PD e SEL oggi gli ha fatto capire: o ti dimetti o ti sfiduciamo. Insomma, bisogna dire che c'è stato un crescendo di disavventure, di gaffe, di assenze in momenti cruciali da parte di Marino. Per esempio, vi ricordate ad agosto il contestatissimo funerale faraonico di Vittorio Casamonica, poi viaggi poco inopportuni, fino ad arrivare insomma a questa polemica sugli scontrini. E si pensava che la seconda fase dell'inchiesta su Mafia Capitale, vi ricordate, no? L'inchiesta su Mafia Capitale, che ha scoperchiato un vaso di Pandora di intrighi criminal affaristici tra imprenditori, politici e criminali incalliti anche, si pensava che questa seconda fase avrebbe portato a un consolidamento anche con l'intervento poi del prefetto Gabrielli del governo di Roma. Però nel giro di alcuni mesi invece sono state ancora passi falsi, colpi di scena, fino ad arrivare insomma a questa storia delle ricevute mal rendicontate, cioè delle spese fatte da Marino con la carta di credito del comune e che non corrispondevano agli scontrini, non tutti, a questi scontrini presentati. È stato il Movimento 5 Stelle che ha spulciato, rispetto al suo ultimo viaggio negli Stati Uniti, le carte ufficiali delle spese del sindaco e ha iniziato a spuntare delle cene private fatte passare invece per cene di lavoro, e così è scoppiata, diciamo, l'ultima polemica su Marino che ha portato a questo esito. Per parlarne saluto Jacopo Iacoboni, giornalista della Stampa. Buonasera Jacopo. Buonasera. E poi c'è Marcello De Vito, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale a Roma. Buonasera De Vito. Buonasera. E Andrea Romano, deputato del PD. Buonasera onorevole Romano. Buonasera a lei, buonasera. Allora, io vorrei far sentire, tanto per ritornare diciamo sulla voce di Marino nelle ultime ore prima delle dimissioni, visto che si parla di questo video che dovrebbe essere messo in rete e ancora non c'è. Sentiamo che cosa aveva detto ieri, arrivato al culmine di questa vicenda delle spese fatte con la carta di credito del comune. Un dibattito surreale sugli scontrini delle spese con la carta di credito per rappresentanza del sindaco. Scontrini che io ho messo sul sito online del comune proprio per avere una totale trasparenza, e dopo si è sviluppato il dibattito. Bene, io voglio mettere un punto, voglio che si rinizi a concentrarsi sui veri problemi, le vere sfide della nostra città, e quindi ho deciso di regalare quei circa 20.000 euro spesi per rappresentanza del comune alla città. Allora, vorrei intanto chiedere a Jacopo Iacoboni, prima di cominciare a parlare con i politici, qual è stata la tua impressione di questo esito, di queste ultime ore? Ma anche di tutta la vicenda Marino, in sintesi. Sì, guarda, io penso che noi dobbiamo partire da porci una domanda: perché si dimette Marino? Se ci si risponde per la storia delle note spese, io voglio dirlo francamente, avendo studiato un po' di bilanci e di note spese di politici, di partiti in quest'ultimo anno, è una storia ridicola le spese che vengono contestate a Marino, cioè aver comprato un vino da 55 euro oppure aver pagato una cena per sei persone. Lo scontrino più alto è una cena per sei persone 260 euro, stiamo parlando del sindaco di Roma, cioè una persona che presumibilmente è al lavoro sempre, a pranzo, a cena, vedrà le sue cene disturbate da 10-20 telefonate, quindi insomma lavora 24 ore. Quindi io sinceramente toglierei la storia proprio delle note spese, perché al momento se le cose che sono venute fuori sono quelle che sappiamo, diciamo, o si dice... Ci sono delle cose che noi non sappiamo, e quindi, ma noi dovremmo stare ai fatti, no? Non alle voci. Quindi secondo me la storia delle note spese è abbastanza ridicola e inconsistente, anche perché faccio notare che i più grandi fustigatori delle spese in politica, cioè il Movimento 5 Stelle, guarda Roberta, sono reduce da un paio di articoli, mi sono andato a studiare moltissime delle note spese di oscuri parlamentari del Movimento 5 Stelle, hanno rendiconti mensili di spese, diciamo, di rimborsi, tutto legittimo, nessun reato, ma 8-9 mila euro sono gli importi che spende il sindaco di Roma. Quindi io toglierei proprio dal campo questa motivazione. Ma allora la domanda è ancora più forte: perché Marino si dimette? Allora, qui possiamo andare nel campo delle diciamo, ipotesi. Naturalmente perché Roma non funziona, perché il PD l'ha abbandonato, perché Renzi non lo difende più, tutto verissimo. Io penso in realtà che il PD sta sbagliando e si pentirà, diciamo, severamente di aver lasciato andare Marino, che con tutti gli errori che ha fatto, tu li hai elencati in maniera molto puntuale, è inutile che ci ritorni, dalle avventatezze, dalle scuse sbagliate che lui ha detto, non si capisce perché abbia dovuto dire delle cose che poi non erano vere, appunto anche su queste note spese, insomma, tutta una serie di peccati, ma anche, devo dire, di una certa... che danno l'idea di un po' di un naif in politica, ecco. Ma secondo me le ragioni vere sono altre invece di questo odio trasversale, di questa caccia all'uomo. Oggi è scattata la caccia all'uomo. All'improvviso sembrava che ci trovassimo di fronte a un criminale politico che veniva attaccato da tutti. La realtà non è questa, sarà il tempo, guarda, io credo, a dire che le cose non sono così. E nel c'è senso, qualche altro Marino, motivo, tu dici? Marino ha sicuramente in mezzo a tanti errori fatto due o tre cose interessanti. Cioè aveva stoppato le varianti urbanistiche di Roma, aveva fermato gli affidamenti di appalti senza gara, aveva stabilito la rotazione dei dirigenti nelle commissioni capitoline, quelle che guardano i bilanci. Lo testimonia il fatto che lo stesso PD in Campidoglio, da quanto mi risulti, è spaccato a metà i consiglieri, e c'è gente che non ha per niente gradito e sa benissimo, diciamo, che si sta consumando una forma di ingiustizia politica. Poi ripeto, questo al netto di tutti gli errori e anche, devo dire la verità, Marino ha un grosso problema. Roma è amministrata male, cioè le strade non vanno bene, ci sono le buche. Ma tra l'altro voglio ricordare però una cosa, che i problemi, per esempio, Roma è una città sporca. Perché è sporca? Perché uno degli atti che ha fatto la giunta di Marino, la giunta alla legalità di Marino, è stata fermare tutte le gare in cui le imprese di pulizia coinvolte nel sistema, diciamo, di Mafia Capitale pulivano la città. Erano tutte quelle, su cinque imprese che prendevano gli appalti della pulizia di Roma, sono finite tutte coinvolte nell'inchiesta, quindi bisogna, insomma, anche un po' mettersi d'accordo. Qualcosa che si è ritorto contro. Allora, Marcello De Vita, consigliere del Movimento 5 Stelle a Roma, Jacopo Jacoboni dice sì, qualche errore l'ha fatto, ma questa cosa degli scontrini non mi sembra proprio l'apice di un malaffare, insomma. Siete stati voi però a puntare il dito, no, su questa cosa degli scontrini. Intanto Marcello De Vito, no, l'unica cosa che ritengo condivisibile del discorso è proprio questo. Diciamo che evidentemente, e questo è stato un po' la ciliegina su questa torta avvelenata che è stata servita ai cittadini romani negli ultimi due anni. Intanto, brevemente sui nostri scontrini, noi con quegli scontrini i soldi li abbiamo ridati, non presi, abbiamo fatto aprire 390 imprese. E non dice poi una cosa vera, a mio avviso, il sindaco, innanzitutto quando parla di donazioni di 20.000 euro, anche perché, se proprio dobbiamo essere precisi, l'importo totale di queste carte di credito che abbiamo preso, che non attengono solo l'ultimo viaggio ma l'intero periodo, è di 50.000 euro. Non è vero poi che è stato il Campidoglio a fare un'operazione di chiarezza, perché se si è fatta un'operazione di chiarezza, questo è merito del Movimento 5 Stelle, che ha fatto un'azione di legalità, di trasparenza pervicace e determinata. Non ci stavano dando i documenti, dopo diversi giorni di accesso agli atti alla fine siamo andati con i carabinieri e ce li hanno dati. No, ma questo dopo è chiarissimo, De Vito, è chiarissimo. Dopo li hanno messi sul sito. Si arriva al punto, perché ecco, ho capito di quale punto volete parlare. In effetti questo, come diceva giustamente il giornalista, è un po' l'apice, ma di due anni di al governo, e in questo lo contraddico. Non è vero che c'è stata discontinuità rispetto ad Alemanno, c'è stata una perfetta continuità in questa consigliatura, non lo dice De Vito al Movimento 5 Stelle, ma lo dicono le relazioni, ad esempio la relazione dell'ANAC, cioè al Partito Democratico è risultato pienamente coinvolto in queste indagini, con persone che Marina all'inizio della consigliatura dichiarava essere sue fiduciarie. Sono stati arrestati dei finanziatori del Partito Democratico e dello stesso Marina. Soprattutto l'ANAC ci dice che c'è stata perfetta continuità, a dispetto di quello che diceva non correttamente poc'anzi il giornalista, nell'affidamento degli appalti, ad esempio che il 90% degli appalti venivano dati senza gara, tanto sotto Marino, tanto sotto Alemanno. Il punto, vede, è che noi tutte queste cose gliele abbiamo dette per tempo e in anticipo, prima dell'approvazione dei provvedimenti. Ad esempio, prima che venisse approvata la delibera di svendita del patrimonio, 28 febbraio, quando c'erano già i vari assessori e fenomeni della legalità insieme a Marino, noi gliel'avevamo detto. Sull'ultimo bilancio che abbiamo portato in Corte dei Conti, che c'erano le proroghe per l'emergenza abitativa che si erano impegnati a dare con gara, cioè quei residence, diciamo, la cittadini per cui il Comune di Roma paga 2.000 euro di affitto al mese, una roba indegna, proroghe da 14 milioni di euro, noi gliel'abbiamo detto in anticipo. Il problema è che questi atti poi sono stati approvati, e sono stati approvati nella consapevolezza, questo è il punto, sono stati approvati nella consapevolezza del sindaco e della giunta. Quindi vede, questo teorema, no, che ha aleggiato in tutti questi mesi persi, e ora dirò anche perché, per cui Marino è tanto bravo e gli hanno fatto le cose sotto al naso, noi sinceramente iniziamo, come dire, prendeteci per malfidati, però è uno schema che non ci ha convinto e non ci convince. Ora vede qual è il punto? Quello che noi abbiamo sempre sostenuto dal 3 dicembre è che questa consigliatura doveva essere, in realtà è finita con l'episodio con cui non doveva finire, cioè con un episodio minimale, diciamo così, no? Parliamo di 50.000 euro di rimborsi per carte di credito, per cene varie, opinabili, diciamo così, valuterà la magistratura se sono riconducibili o meno all'evento di natura istituzionale. Il problema è che questa consigliatura doveva essere conclusa dal 3 dicembre, da quando è scoppiata un'indagine in cui il Partito Democratico è risultato e risulta fortemente coinvolto, un'indagine che attesta che questa cricca ha proliferato e agito indisturbata tanto nel precedente quanto nell'attuale consigliatura, con delle connessioni, con dei gangli importanti di potere, anche del Partito Democratico, a quanto ipotizzano i magistrati. Dopo questo il sindaco Marino e Renzi devono fare un bel passo indietro, invece non l'hanno fatto a proprio uso e consumo, esclusivamente consapevoli del fatto che se si fosse andato a votare avrebbe vinto il Movimento 5 Stelle, quindi hanno tenuto Roma in ostaggio. Ecco, De Vito, Roma ora si è stufata di essere in ostaggio. Chiarissima la sua posizione, visto che c'è di mezzo il PD, onorevole Romano. Tra l'altro Marino, poi sentiamo vediamo dei passaggi, non so se c'è questo passaggio nel video, dice: temo però che dopo di me torni il meccanismo mafioso, consociativismo del meccanismo corruttivo mafioso che ha toccato anche parti del PD e che senza di me avrebbe travolto non solo l'intero partito ma anche il Campidoglio. Rispondo volentieri alla sua domanda, mi lasci commentare quanto era stato detto poco fa sì. sia dal giornalista della Stampa che dall'esponente dei 5 Stelle. Marino si è dimesso per un fatto preciso e non è un fatto irrilevante, ovvero l'ipotesi secondo la quale soldi pubblici, perché di questo si tratta, siano stati utilizzati per spese private. Non è tanto il costo del vino, il costo della cena, quanto un fatto più elementare e più grave, sempre in ipotesi, ovvero che il sindaco di Roma abbia usato una carta di credito pagata da tutti noi, dai cittadini, per spese che non sono di rappresentanza ma spese private. E un politico a qualunque livello, ma soprattutto se è il sindaco della capitale d'Italia, non può fare così, e di fronte a questo sospetto è stato giusto e responsabile che il sindaco di Roma si sia quindi non è un peccato veniale come c'è, no, niente affatto, tanto che voglio dire le eventuali gaffe eccetera eccetera non hanno mai portato a ipotesi di dimissione, fermo restando che sono state gaffe, ma perché finché, come dire, questo restava nel campo di una navigazione politica che poteva essere accidentata, però era una navigazione politica, era un conto. Questo è stato un fatto rilevante. Aggiungo che fatti di questo tipo ovunque in Europa, nei paesi normali, portano alle dimissioni dei politici. È successo in Svezia, mi ricordo 20 anni fa, è successo in Gran Bretagna, in Germania, ovvero quando un politico viene sospettato di aver usato fondi pubblici anche per spese piccole, si tratti di esempio, mi ricordo in Germania si sono dimessi i parlamentari perché avevano usato i punti, diremmo in Italia, 1.000 miglia all'Italia guadagnati per viaggi, attraverso viaggi istituzionali, per farsi un viaggio privato, si sono dimessi ed è giusto dimettersi, quindi Marino ha fatto bene, ha fatto un gesto di responsabilità. Vorrei dire al rappresentante dei 5 Stelle che mi auguro che lo stesso facciano quei sindaci dei 5 Stelle che stanno mentendo. Faccio un esempio specifico: il sindaco di Pomezia, che viene portato in palmo di mano dal Movimento 5 Stelle e da Beppe Grillo in particolare, è stato colto in castagne in questi giorni perché nella sua giunta c'è la sua fidanzata, la sua compagna dalla quale avrà un figlio, in evidente conflitto di interessi. Certo, non è un reato avere in giunta la propria compagna, ci mancherebbe altro, però è un evidente, come dire, atteggiamento fatto, diciamo, imbarazzante. Il sindaco di Pomezia, messo di fronte a questo, ha detto: no, ma l'assessora si è dimessa, cosa non vera, perché le dimissioni semmai ci saranno tra qualche mese. Ecco, un politico, a qualunque livello sia, non può, come dire, mentire ai propri elettori. Sarebbe utile se i 5 Stelle avessero lo stesso comportamento nei confronti dei propri rappresentanti. Per tornare al punto che lei sollevava, quello che ha detto Marino in questo messaggio: le dimissioni sono le dimissioni, non c'è, diciamo, non è che c'è, sono delle dimissioni. Lo vogliamo sentire un attimo, sentiamo un attimo, prego, questo passaggio, prego, brevemente. Ma esiste un problema di condizioni politiche per compiere questo percorso. Queste condizioni oggi mi appaiono assottigliate, quasi assenti. Per questo ho compiuto la mia scelta. Presento le mie dimissioni, sapendo che queste possono essere per legge ritirate entro 20 giorni. Non è un'astuzia la mia, è la ricerca di una verifica seria, se è ancora possibile ricostruire queste condizioni politiche. Romano, quindi da quello che lei diceva non c'è la possibilità di ritornare sopra queste dimissioni, ma come diceva Iacoboni, si pentirà il PD, potrà pentirsi il PD? Ma ci mancherebbe altro, il Partito Democratico ha sempre sostenuto il proprio sindaco, perché di questo si trattava, quando il proprio sindaco svolgeva le funzioni che stava svolgendo bene o suggerendogli e pungolandolo a fare meglio quando queste funzioni non erano svolte bene. Il Partito Democratico non ha alcuna paura di andare al voto, andremo al voto e il nostro partito presenterà un candidato che avrà, vi assicuro, una forza molto considerevole rispetto alla quale l'eventuale il candidato dei 5 Stelle farà la sua battaglia, ma io non ho... Avete già un nome che mi stanno tagliando la testa qui con ci, i tempi? Ci mancherebbe altro, non è così. Ovviamente però vorrei finire dicendo una cosa. Il Partito Democratico, a differenza di altri partiti, a Roma ha fatto pulizia al proprio interno, ha commissariato la propria organizzazione e ha rimosso da tutti gli incarichi coloro che erano stati anche solo sfiorati da un'indagine, anche prima, in alcuni casi, come nel caso di Ostia, che l'indagine fosse avviata. Quindi il Partito Democratico non ha niente da temere, ha fatto pulizia al proprio interno e rivendicherà le cose buone fatte da questa amministrazione anche nella prossima imminente campagna elettorale. Benissimo, quindi sia l'onorevole Andrea Romano del PD, sia Marcello De Vito del Movimento 5 Stelle hanno detto chiaramente le loro posizioni. Jacopo, hai proprio 20 secondi per fare una chiusa se vuoi, ma devo proprio tagliare. Senti la sigla. All'esponente dei 5 Stelle direi che l'affidamento delle gare, degli appalti solo attraverso gara è partito, è vero, quest'anno a gennaio, uno può dire Marino lo avrebbe potuto fare prima, intanto lo ha fatto. Invece ad Andrea risponderei sul fatto che, diciamo, si sta discutendo se Marino abbia o meno pagato una o due cene alla moglie e ai familiari. Dal mio punto di vista, intanto vedremo se è così. Mi stupisce la cribbia con cui si guarda nel dettaglio delle note spese, non di una vacanza alle Maldive, ma di una cena eventuale, se di questo si tratta, con la moglie, di fronte al caso di, come dire, cioè, mi sembra che veramente poi non ci si può lamentare del populismo e dell'antipolitica se la si cavalca selvaggiamente poi a giorni alterni. Chiarissima la posizione, mi ha detto posizioni tutte molto interessanti, quindi ringrazio Marcello De Vito del Movimento 5 Stelle, grazie De Vito, Jacopo Iacoboni della Stampa e l'onorevole Andrea Romano del PD. Grazie, buona serata. Viabilità. Sono Maria Latella e la domenica mattina finora potevamo incontrarci in TV. D'ora in poi invece ci troveremo anche su Radio 24, ogni domenica mattina alle 10, per parlare di donne perfette, imperfette, aspiranti alla perfezione e di come ci vedono gli uomini. Vi aspetto ogni domenica mattina alle 10 su Radio 24. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. The Nobel Prize in Literature for 2015 is awarded to the Belarusian writer Svetlana Alexievich for her polyphonic writings, a monument to suffering and courage in our time. Hello? Hello, good day to you, Svetlana Alexievich. Congratulations on the Nobel Prize 2015. Vabbè, cari ascoltatrici e ascoltatori, non è necessario comprendere tutto, però quello che abbiamo capito è che siamo a questo punto arrivati giorno dopo giorno al Nobel per la letteratura, che è stato assegnato oggi, avete sentito l'annuncio dell'Accademia delle Scienze di Stoccolma, a una scrittrice e giornalista bielorussa che è Svetlana Alexievich. L'avete sentita, è stata raggiunta, immaginate essere raggiunti al telefono e dire senta, lei ha vinto il premio Nobel, in questo caso per la letteratura. Abbiamo sentito la sua emozione e la spiegazione, la motivazione dell'Accademia Reale Svedese era questa: per la polifonica scrittura nel raccontare un monumento alla sofferenza e al coraggio dei nostri tempi. Ne parliamo di questa autrice, che probabilmente non sarà dai più conosciutissima in Italia, con Serena Vitale, scrittrice e traduttrice. Il suo ultimo libro è Il defunto odiava i pettegolezzi. Buonasera Serena. Buonasera. Per gli ascoltatori dirò che quello che ha detto, meravigliatissima al telefono, ha detto: oddio, che responsabilità, dopo Brodsky, Pasternak. Ecco, traduzione che era più che opportuna quella di Serena Vitale, perché immaginate, lei dice, con questi mostri della letteratura, e giustamente lei dice, anch'io adesso. Senta, io l'ho conosciuta l'anno scorso. E c'è stato un innamoramento reciproco, perché è una donna, un donnino, potrebbe essere la vicina di casa che uno va a chiedere il prezzemolo, cioè, in tutto modesta, tranquilla, non usa gli alti, non si dispera, non accusa, non piange, e dice delle cose terribili, parla di cose terribili, scrive di cose terribili con una modestia, con un non understatement, ma si nasconde lei. Il suo tipo di scrittura è stato definito documentaristica letteraria, la chiamano. E corale, anche hanno detto, no? Il suo modo di raccontare. Lei usa le voci altrui, fa questo grandissimo lavoro di montaggio, e infatti non le dico le reazioni in Russia, sono tutti arrabbiati. No, non in lingua russa, non diciamo in lingua russa, però mi pare che lei sia piuttosto boicottata, no Svetlana? Mi pare che avesse fatto diverse dichiarazioni dicendo che in Bielorussia la boicottano, che Putin neanche l'ha chiamata, neanche Lukashenko, il presidente. Ma nel modo più assoluto, no? Sono arrabbiati, c'è soltanto una cosa politica, e l'Europa contro di noi. Sa, è il problema adesso che c'hanno, cioè il complesso dell'Europa. Comunque invece Svetlana è un individuo angelico, con una faccina un po' di campagna, se vuole, molto, molto slava. Pensi che il primo libro, che si chiama La guerra non ha volto di donna, dell'83, aspettò 2 anni e venne bloccato dalla censura perché pacifista. Penso poi. Poi mi pare che però il libro più celebre sia Preghiera per Chernobyl, no? Dove ha raccolto tante voci, esatto, delle vittime di quella tragedia. Tutte le voci. È una grande. Una grande. E con questo chiudiamo, ha detto tutto praticamente, Serena Vitale. Grazie allora. Buona continuazione. Arrivederci, a presto, buona notte a voi. Grazie. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Mentre arrivano tantissimi vostri messaggi, Roberta Giordano sempre con voi, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte che al 349-238-6666, vi ricordo che le notizie principali sono le dimissioni di Marino dopo questo pressing fortissimo da varie parti, anche dal suo partito si è dimesso, ma dice 20 giorni per ripensarci. Poi Damasco, per quanto riguarda la Siria, che lancia l'offensiva di terra e la NATO alza la voce contro Mosca. E poi il Nobel per la letteratura, avete appena sentito, la bielorussa Alexievich, non rispetto il mondo di Putin e Stalin, sono boicottata dal potere. Europa 24. Per lo spazio europeo parliamo del brevetto unitario europeo. Con l'adozione da parte del Collegio dei Commissari, l'Italia è ufficialmente diventata il 26esimo paese a entrare nella cooperazione rafforzata sul brevetto unitario. Si tratta, e ha sottolineato così la Commissione europea, di una grande svolta, in quanto l'Italia è il quarto più grande mercato in Europa in termini di convalida di brevetti. Un'ottima notizia, secondo il presidente dell'Ufficio Brevetti Europeo, Benoît Battistelli. Siamo vicini alla fine di un lungo processo iniziato circa 40 anni fa, ma siamo molto vicini alla chiusura di questo processo. Siamo felici che l'Italia sia unita a noi. Il brevetto unitario europeo senza l'Italia sarebbe stato come la Formula 1 senza la Ferrari. Con l'ingresso dell'Italia, che era già stato preannunciato a luglio da una lettera del governo a Bruxelles, il brevetto europeo diventerà ancora più attraente per imprese e inventori. La patente unitaria è un enorme semplificazione e un'enorme riduzione dei costi per le imprese e per la protezione delle loro invenzioni in tutta Europa. Semplificazione perché le imprese hanno un solo interlocutore, l'Ufficio Europeo dei Brevetti, non solo per ottenere un brevetto unitario, ma anche perché si ha protezione prima e dopo la vita del brevetto, che dura 20 anni. Per le piccole e medie imprese la protezione in 26 paesi anziché in 4 paesi soltanto sarà una riduzione dal 60 all'80% dei costi. La Spagna, che con l'Italia si era opposta al brevetto europeo perché lo aveva ritenuto discriminatorio da un punto di vista linguistico, infatti sarà trilingue con inglese, francese e tedesco, ma comunque ci saranno degli aiuti finanziari per la traduzione, ci sarà un sistema automatico di traduzione, in questo momento non ha dato segnali di voler aderire. La Croazia invece, entrata nell'Unione Europea dopo il lancio della cooperazione rafforzata, ha indicato invece l'intenzione appena possibile di avanzare sul dossier. Domani a Lussemburgo ci sarà la cerimonia della firma per la Corte Europea dei Brevetti, finora ratificata da 8 Stati membri e su cui la Commissione invita gli altri paesi, Italia inclusa, che ancora non l'hanno fatto avanzare. Spain continues to disagree for the linguistic reasons. La Spagna continua a non essere d'accordo per ragioni linguistiche, ma ci sono ragioni economiche per la traduzione sulle interlingue. Però ci sono finanziamenti per le compagnie che non appartengono a queste lingue. Stiamo discutendo un ammontare di 1000 euro per ogni domanda che deve essere tradotta in inglese. Dopo l'accordo sui costi di rinnovo, quindi ora Bruxelles guarda una rapida intesa anche sulla chiave di ridistribuzione dei profitti agli Stati membri partecipanti. L'obiettivo è che l'intero pacchetto brevetto europeo entri in vigore entro la fine del 2016. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus. Velocemente alcuni dei tanti messaggi, per esempio sulla pagina Facebook di Effetto Notte a proposito delle dimissioni di Marino. Paolo dice: sono del Movimento 5 Stelle, ma ho sempre stimato Marino e credo sinceramente che la sua più grave colpa sia stata quella di aver toccato tasti delicati. Sergio: se si andasse a votare sarei contento, ma siccome la banda Bassotti si sarà già messa d'accordo per sostituirlo con un coglione simile, dice: se non peggio fossi in voi non esulterei tanto. Maria Ornella: dovrebbe ritirare le dimissioni. Giuseppe scrive: l'errore di Marino è che doveva invitare a cena i 5 Stelle e gli altri partiti, così non si lamentava nessuno. Vergognatevi, avete attaccato una una persona onesta. Thomas era ora è solo un incompetente e incapace. Certo, mi piacerebbe sapere chi va al posto suo, uno peggio di lui. Insomma, tantissimi i vostri messaggi. Però adesso dobbiamo aggiornarci con Dario Ricci sulla partita Albania-Serbia e anche sul resto. Ciao Dario. Eccoci cara Roberta. Beh, Albania-Serbia sono sullo 0-0 in una serata che sembra essere solo di calcio, fortunatamente, sotto tra l'altro un'acquazzone considerevole, quindi diciamo sfortunatamente dopo le tensioni della vigilia tutto sembra procedere per il meglio. E che forse placa anche i bollenti spiriti nel caso. Beh, no? Insomma, diciamo che l'acqua in questi casi è provvidenziale, almeno bagna la polvere da sparo, dai. Almeno ecco. Quello. Senti, invece i guai di Blatter, Platini e anche di Messi per questioni diverse. Beh sì, sono tutti scossoni che minano un po' le fondamenta del calcio mondiale, perché la commissione etica della FIFA, dopo aver fatto filtrare la notizia dei 90 giorni di sospensione per il presidente Sepp Blatter, ha ufficializzato che uguale periodo è destinato a Michel Platini, il presidente dell'UEFA e primo candidato alla presidenza della FIFA dopo il FIFA Gate che abbiamo raccontato nei mesi scorsi, e anche per quel Jerome Valcke che è il segretario generale della FIFA, cioè il braccio destro nei fatti, il braccio operativo dello stesso Blatter. Che scenario si crea in questo momento? Beh, di fatto questa sospensione allunga le ombre su quello che era appunto un po' l'erede designato, l'alternativa a Blatter, cioè proprio Platini, e sembra quasi bruciarne la candidatura, Roberta, anche se Platini ha detto che non si tira indietro e continuerà la sua corsa alla presidenza. Sembra insomma una manovra che potrebbe avere sempre in Blatter il regista occulto, perché potrebbe poi favorire l'ascesa di un outsider magari più accondiscendente col vecchio presidente, che sia un po', diventi un po' la sua longa manus anche sulla prossima presidenza. Insomma, che intrighi anche sul calcio. Intrighi, brava. Messi invece in questi 20 secondi che ci rimangono ha problemi col fisco in Spagna, lo vogliono arrestare addirittura. Sì, 20 secondi e 22 mesi di carcere, quelli che gli sono stati prospettati dall'avvocatura di Stato spagnolo per un'evasione fiscale relativa ai diritti d'immagine, la faccio breve, di oltre 4 milioni di euro, che tra l'altro Messi e il padre hanno già saldato riconoscendo la loro colpa. Si sta scatenando anche un conflitto di attribuzioni tra la procura e l'avvocatura. Io credo che quello che finora non è riuscito ai difensori di tutto il mondo, cioè mettere in gabbia la pulce, non riuscirà neppure al fisco spagnolo. Molto bene, sono molto severi tra l'altro. Grazie Dario Ricci di questa esauriente sintesi di tutti i guai che riguardano il calcio. Grazie Dario. A voi. Ciao Dario, ci sentiamo alle 22.